alta voce. Valerio Aprea legge La ricreazione è finita di Dario Ferrari. Arrivo all'appuntamento con Sacrosanti con un anticipo a cui non sono abituato. Del resto è un ricevimento importante che preparo ormai da più di 2 mesi, dal giorno in cui Carlo mi ha detto che avrei avuto una borsa di dottorato e mi ha fatto capire che non era necessariamente una buona notizia. Da allora non ho fatto altro che elaborare, rifinire e cesellare dei progetti di ricerca dignitosi da poter proporre oggi al Chiarissimo. A essere onesto, ho l'impressione di aver fatto un buon lavoro e sono pronto a mostrargli che anche se non ero la sua prima, la sua seconda e nemmeno la sua terza scelta, posso comunque dargli delle soddisfazioni. Certo, non sono Carlo, non ho il pedigree dello studioso, ma un po' di buona volontà e qualche buona idea ce la posso mettere. Del resto, Sacrosanti non è uno studioso paludato che vuole solo allievi ipereruditi e polverosi. Magari gli piaccio. Dopo la lunga attesa, il prof esce in corridoio preceduto da Pierpaolo e da come si comportano sembrano proprio 2 vecchi amici. Allora le mando la recensione e le bozze dell'articolo riviste entro la fine della settimana. Ricapitola Pierpaolo. Si stringono la mano e si salutano. Arrivederci, professore. Ciao Pierpaolo. Quando Pierpaolo mi vede, sembra non riconoscermi. Poi mormora un saluto e fugge via. Buongiorno, dottor Gori, mi dice il Chiarissimo Sacrosanti, e quasi mi sciolgo per la soddisfazione che lui invece mi riconosca e anche per il fatto di essere stato chiamato dottore. È la terza volta in vita mia. La prima sono state le congratulazioni dopo la discussione della tesi e la seconda il coro «Dottore nel buco del cul» di 10 minuti dopo. Ma da quel giorno né io né nessun altro ci siamo mai sognati di usare quel titolo abbinato al mio nome. Mi fa accomodare alla sua scrivania, su cui sono accatastate pile di libri e di tesi, oltre a uno scintillante iMac da 27 pollici. Lui si siede su una grossa sedia di pelle dall'altra parte. Ha i capelli grigi foltissimi che ostenta con un ciuffo imperioso. Porta giacca e camicia senza cravatta e riesce a mantenere nello sguardo una ammirabile alchimia che lo fa apparire al contempo benevolo e penetrante. Dietro di lui una gigantesca libreria stracarica fatta con mattoni e assi di legno e sulla parete di destra un manifesto del convegno di Italian Studies che hanno organizzato a Stanford l'anno scorso, in cui il suo nome è scritto in grande. È venuto a presentarmi il suo progetto di ricerca, immagino. Sì, certo, ne ho preparati 3, a dire la verità. Addirittura. Mi chiedo se presentarsi con 3 progetti non appaia eccessivo, il tipico errore di chi non è del mestiere, come il campagnolo che si veste da damerino per andare a un barbecue e trova tutti in felpa e canotta. Volevo dire 2, mi correggo, cassando mentalmente il più improbabile dei 3. Allora, i discorsi che mi ero ripetuto mentalmente ieri sera, convincenti, dotti e ironici, sono evaporati. Ho la bocca secca e fatico a trovare il fiato necessario ad arrivare in fondo alle frasi. Pensavo ovviamente alla teoria della letteratura, piuttosto che all'italianistica, che io, se si ricorda, avevo lavorato soprattutto su Kafka, quindi, insomma, sono più comparatista che italianista, anche se comparatista mi sembra un parolone, ridacchio tra me da solo. Forse dovrei interromperla subito. No, aspetti, mi lasci esporre. Dico con una risolutezza che non so da dove mi arriva. Un progetto che mi piacerebbe sviluppare sarebbe Borges e Unamuno, lettori del Chisciotte. Wow! L'altro? Wow! Non riesco a capire se è uno wow wow o uno wow sarcastico, ma a occhio direi la seconda. L'altro sarebbe un po' di più ampio respiro, un po' azzardato pure. Pensavo una cosa tra Gadda, Bolaño e Foster Wallace. E quale sarebbe il nesso? Leibniz, dico, grido con aria trionfante, come se avessi appena fatto un gran numero di prestidigitazione. Niente meno, scoppia a ridere lui. Non esattamente la reazione che mi aspettavo. Senta, io glielo dico francamente. Apprezzo molto chi ha il coraggio di perseguire le proprie ambizioni anche quando urtano contro il buon senso. Anzi, le dirò di più. Se la gente ascoltasse sempre il buon senso, sarebbe un disastro. Per dirne una, non esisterebbe la letteratura. Pensi che in coscienza ci vuole a scrivere la Divina Commedia, o quanto deve disinteressarsi dei giudizi altrui un borghese di mezza età che decide di passare anni a cercare di entrare nella testa di una signora di provincia nemmeno troppo simpatica. Se c'è un nemico dell'arte, quello è il buon senso. E però io adesso le farò non di meno un discorso di buon senso, anche perché quello che lei si accinge a fare non è scrivere un romanzo, per il quale le suggerirei di avere al contempo il massimo rigore e la massima sfrontatezza. Lei si accinge a entrare in un mondo professionale e molto regolato, direi proprio codificato. E in questo mondo conviene essere avveduti. Gadda, Bolaño e Foster Wallace richiederebbero ognuno una tesi di dottorato, e per Leibniz non basterebbe una vita. Diciamo che questo se lo può tenere come progetto a lunghissimo termine, per quando sarà un ordinario affermato, magari in America, che qui in Italia non siamo pronti per questo tipo di opere omnicomprensive. Il che non è detto sia un bene, anzi. Non so se è il mio stato emotivo a distorcermi la percezione, ma non riesco a capire se mi sta prendendo per il culo o se è serio. Voleva solo dire che il mio è un progetto ambizioso o che è delirante? Lui, in fondo, ha scritto Pragmatica del romanzo, che come opera omnicomprensiva mi sembra non aver niente da invidiare a nessun americano. Secondo me, prosegue, dovremmo volare più bassi. Non è una critica, badi bene, e alla fine sarà lei a decidere su cosa lavorare. Però la faccio riflettere su alcuni aspetti. Il primo è che tesi del genere sono a forte rischio deragliamento, ovvero sfuggono facilmente di mano. Rischia di trovarsi con un materiale sterminato senza sapere più che farne. Il secondo è che, per lo stesso motivo, le sconsiglio una tesi in teoria della letteratura, che mi pare più un punto d'approdo per un letterato navigato che un punto di partenza. Propenderei dunque, se fossi in lei, per una tesi di dottorato in italianistica. Questo avrebbe diversi vantaggi. Anzitutto, un argomento circoscritto che le permette di realizzare un lavoro più solido, più fondato e, in fin dei conti, accademicamente più spendibile. Poi, anche in prospettiva, ci pensi. Una tesi come quella su Bolaño e l'universo mondo non troverebbe interlocutori, mentre una su un autore italiano, magari minore, la attesterebbe come studioso affidabile praticamente per tutti i dipartimenti d'Italia. e soprattutto all'estero, dove un italiano esperto di letteratura italiana può trovare un posto con facilità. Conosco dei cretini che però erano i massimi conoscitori di Gozzano o di Giovan Battista Marino e si sono presi dei posti di tutto rispetto alla St. Andrews o alla Northwestern. Mi sta dando del cretino? Con questo non è che voglia precluderle qualcosa, voglio solo dire che ci sono scelte che aprono strade e altre che finiscono in vicoli ciechi. Fa una pausa, come a sincerarsi che lo stia seguendo. Capisco, dico, in parte mentendo. Insomma, il mio consiglio è: restringa il campo della ricerca, lo definisca con precisione e diventi la massima autorità su quel fazzoletto di terra. È così che funziona l'Accademia. Si conquisti un feudo in cui è inattaccabile e chiunque vorrà attraversarlo dovrà pagarle una gabella, leggerla e soprattutto citarla. Poi da lì potrà espandersi col tempo, ma senza un feudo non va da nessuna parte. Del resto è difficile decidere dal nulla di scrivere una tesi contemporaneamente su Cervantes, Borges e Unamuno. L'attaccherebbero da tutte le parti. Li conosce? I cervantisti? Sono inflessibili, non fanno passare un mezzo passo falso a nessuno. Trascrive male una parola delle novelle esemplari e quelli la impallinano. Capace che in 2 mesi escono 7 articoli per dire che lei è un ciarlatano. Dia retta a me. Prima si faccia le ossa e si costruisca una rispettabilità accademica, mostrando di saper trattare senza sbavature un argomento specifico. Poi avrà le credenziali per parlare di ciò che vuole. Umberto Eco ha fatto una tesi sull'estetica di San Tommaso prima di scrivere su qualsiasi cosa. E anch'io, nel mio piccolo, il primo libro che ho scritto era sul rapporto tra Dante e gli averroisti latini. Quindi dovrei concentrarmi su un autore solo? A mio parere sì. Un autore italiano minore sarebbe ancora meglio. Diventi il massimo esperto mondiale di Gino Tarchetti, per dire, o di Guido da Verona. Chi cazzo è Guido da Verona? Ok, ci rifletto. Prima che ci rifletta, le faccio una proposta io. Le do una dritta, anzi. Lei conosce Tito Sella? Sul serio, chi se la sentirebbe di dire che magari l'ha pure sentito nominare quel Sella pur non essendo in grado di citare un solo libro scritto da lui? Io no. Certo, rispondo, mi fa piacere. Del resto è viareggino come lei. Non tutti lo conoscono e non ha mai avuto il giusto riconoscimento, è sempre stato inattuale, se capisce cosa intendo. Ormai sono in ballo, tanto vale fingere di capire anche i sottintesi. Sorrido, complice. Me ne sono occupato anch'io, alcuni anni fa, soprattutto per... vabbè, non l'annoio. Me ne sono occupato anche perché eravamo amici e compagni negli anni 70 e gli ho voluto molto bene anche quando ha sbagliato. Si fa pensieroso, forse sospira, poi riprende. Ora, la scelta dell'argomento, glielo ripeto, spetta a lei. Ma le do quest'indiscrezione. Ci sono ottime probabilità che su Tito Sella ci sarà a breve del materiale inedito su cui lavorare. Tra poco diventerà consultabile il suo archivio, probabilmente lo riceverà alla Biblioteca Nazionale Mitterrand a Parigi. Potrebbe essere una scusa anche per farsi qualche mese all'estero. La indirizzo io ad alcuni colleghi di Nanterre, che sono ottimi italianisti nel caso. E in questo modo potrà pensare di fare una tesi avendo a disposizione appunti e materiali preparatori. È un tipo di lavoro molto diverso da quello che probabilmente aveva in mente lei, ma di sicuro ne uscirebbe qualcosa di rilevante e anche di molto più spendibile a livello accademico. Se poi dal doppio fondo di una cassa dell'archivio salta fuori la fantasima, il suo testo autobiografico che si dice sia andato perduto, allora ha fatto jackpot. Che gliene pare? Anche se non colgo i dettagli, fare jackpot in effetti sembra una buona prospettiva. Risultato? Mollo istantaneamente tutti i miei sudati progetti di ricerca e accetto a scatola chiusa quello del chiarissimo. Sacrosanti è visibilmente compiaciuto e la sua soddisfazione mi dà una bella carica. La renderò orgoglioso, prof, ed entrerò a far parte della sua corte di intellettuali e le dirò: non mi dispiacerebbe nemmeno venire con lei a Stanford. Soprattutto non mi dispiacerebbe andarci a fare il professore strapagato e mezzo hippie di quelli che salgono in piedi sulla cattedra e si fanno di acidi spacciandoli per ricerca. Esco dall'ufficio, che sono abbastanza esaltato. Appena fuori da Palazzo Ricci prendo il cellulare e googolo il nome di questo tizio, che costituirà il centro del mio lavoro per i prossimi 3 anni. Wikipedia. Tito Sella, 1953-1998, è stato un terrorista italiano. Valerio Aprea ha letto La ricreazione è finita di Dario Ferrari, a cura di Fabiana Carobolante, con Chiara Valerio, Ornella Bellucci e Jacopo De Bertoldi. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.